Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente di quanto sta avvenendo a Bruxelles o non avvenendo a Bruxelles, viste le notizie che si rincorrono. Il tema è la Grecia, tanto per cambiare. Avremo anche un approfondimento però sulla Cina, come promesso nei giorni scorsi, per via di cali profondi negli indici borsistici cinesi. E ancora parleremo anche di due debuttanti in borsa in un periodo in cui chiaramente ci vuole anche un po' di coraggio per debuttare in borsa. Partiamo subito però dagli ultimi aggiornamenti. Allora, nel giorno in cui il Fondo Monetario segnala una ripresa fragile e lenta in Italia, più 0,7%, siamo comunque fuori dalla recessione, ma l'economia accelererà solo a partire dal 2016, sempre il Fondo Monetario dice che, attenzione, la Grecia potrebbe avere un impatto sostanziale sull'Italia, anche perché gli avversi sviluppi in Grecia potrebbero avere un sostanziale impatto sull'Italia tramite effetti sulla fiducia, anche se l'esposizione diretta è limitata. Quindi è vero quello che dice il ministro Padoan, l'esposizione nostra è limitata nei confronti della Grecia. Però attenzione che, a differenza di quello che sentiamo dire spesso, non vi sarebbero ricadute sull'Italia, il Fondo Monetario la pensa in maniera diversa. Ma veniamo alla Grecia. Allora, fermo restando che la borsa resterà chiusa anche domani e che nell'ultima settimana migliaia di lavoratori sono stati licenziati o sospesi dal lavoro finché la situazione politica non sarà più chiara, addirittura la stampa locale stima in 40.000 persone. Allora, che cosa è successo in Grecia? Tsipras, secondo le fonti, avrebbe chiesto 7 miliardi di prestito al più presto entro le prossime 48 ore per far fronte all'emergenza, cioè debiti in scadenza, ed evitare il default. Però sempre le fonti di Bruxelles fanno sapere che non è arrivata, non sarebbe presente nella valigia di Tsipras nessuna nuova proposta. Tra l'altro questo sembra abbia innervosito tutti i ministri e si aspettano anche dichiarazioni di Dijsselbloem. Sempre secondo quanto oggi riferito, la Grecia presenterà presto un programma ricco di riforme contro evasione fiscale, criminalità e per snellire la burocrazia e tornare a crescere. Questo un eurodeputato greco di Siriza, che è Papa Dimoulis, che è anche vicepresidente del Popolari Europei, e sempre fonti anche europee confermate dal presidente dell'Unione Europea Martin Schulz, domani Tsipras all'Europarlamento dovrebbe presentare il piano. Però per ora non c'è nulla se non la richiesta da 7 miliardi e un incontro che si sarebbe tenuto che si terrà, scusatemi, poco prima dell'inizio di questo vertice, e quindi tra Angela Merkel, François Hollande e Tsipras, e quindi un pre-vertice, chiamiamolo così, visto che il vertice vero e proprio dovrebbe iniziare alle 18. Altre agenzie diffondono adesso la notizia che la nuova proposta di Atene dovrebbe arrivare domani. E insomma, stiamo attendendo. Devo dire che la confusione è massima sotto il cielo. Ne prende atto la borsa, che dopo un tentativo di rimbalzo, e devo dire che oggi Milano è in linea, non si può dire mal comune mezzo gaudio, con le altre borse europee, dopo un tentativo è di nuovo negativa, meno 2,20% Milano, meno 1,80 Parigi, meno 1,70 Francoforte, Londra meno 1,13. L'euro anche sotto quota 1,10. A 1,09, di nuovo negativi in maniera pesante tutti i titoli bancari: Monte dei Paschi meno 6,70, Popolare Emilia Romagna meno 5,50, come la Popolare di Milano. Il Banco Popolare perde il 4%, Unicredit il 3%, E ancora Unipol 6 il 2,5, Ubibanca il 2,5, anch'essa Intesa San Paolo cede il 2,20%, poi male tra i non bancari Saipem meno 6,40, Mediaset meno 3,30, Buzzi Unice meno 3,90, Iux meno 3,30, Azimut meno 3, Eni meno 3%, Moncler meno 2,90. Percento di positivo tra i titoli di maggiore capitalizzazione non vi è nulla. Diciamo che chi si comporta meglio sono Ansaldo, STS e World Duty Free, che sono invariate, Campari, Pirelli, Terna e Autogrill, che perdono solo lo 0,20%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Visto che parlavamo del Fondo Monetario Internazionale, che appunto nel suo rapporto sull'Italia individua uno 0,7% quest'anno di crescita, più 1,2% l'anno prossimo, l'agenda di Renzi viene definita ambiziosa, ma si invita a fare riforme più profonde per riavviare la crescita e per cogliere l'opportunità, e dice che il rischio sull'Italia di un caso greco è sostanziale, anche se l'esposizione nel breve termine è limitata, è limitato sia il rischio di contagio che l'esposizione diretta. Proprio su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche con Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. La Grecia può essere contagiosa per l'Italia. Chiaro, secco, drammatico, lo ha detto il Fondo Monetario Internazionale nella conclusione della tradizionale lettera sul paese. L'Italia del resto crescerà a un tasso dello 0,7% nel 2015, con un piccolo miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime di primavera e dell'1,2% nel 2016. Merito soprattutto del Jobs Act e della manovra della Banca Centrale Europea che tiene a bada lo spread, ci dice il Fondo Monetario. La ripresa però resta fragile. Del resto la disoccupazione passerà dal 12,5 al 12,2% in un anno, non certo un grande miglioramento. Il problema nel nostro paese è la scarsa produttività e l'inefficienza della pubblica amministrazione, che sono poi i mali storici dell'Italia. Il fondo nota che nella sola pubblica amministrazione il margine incremento potrebbe essere del 22% ed è certo un balzo colossale. I guru di Washington poi non dimenticano che sono in atto riforme importanti, da quella delle banche popolari a quella della giustizia o della pubblica amministrazione o del fisco, per non parlare di quelle istituzionali. Ma a queste attribuiscono solo il valore di una finestra di opportunità per la crescita, tutta ancora da cogliere. E il fondo certo non dà il giusto rilievo al fatto che l'Italia sia la seconda manifattura d'Europa e possa contare su un risparmio privato che la cui entità è prima nel vecchio continente. A volte quindi si rischiano un po' di luoghi comuni. Si dice ad esempio che ci vogliono 120 giorni per ottenere l'energia elettrica. È poco o è tanto? In Gran Bretagna ce ne vogliono 126, a Los Angeles 132 e in Canada 142, è poco quindi. Ma il problema è che in Italia ci vogliono 230 giorni per un permesso di costruzione, 1100 giorni per applicare definitivamente un contratto e quasi 3 anni per avere ragione di un assegno scoperto. E questi non sono luoghi comuni, sono drammi comuni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi e sta peggiorando comunque la borsa, proprio alla luce delle notizie che arrivano da Bruxelles, peggiora in maniera visibile, meno 2,70 adesso, ha perso mezzo punto percentuale da quando è iniziato il programma, non è colpa nostra, Parigi adesso perde meno 2, Francoforte l'1,85, per cui siamo lì. Lo spread non è così mosso, abbiamo visto rendimenti in negativo dei bund tedeschi, sempre considerati bene rifugio, tant'è che si preferisce perdere i soldi, ma mettere i soldi nel debito tedesco. Le dichiarazioni, ripeto, sta cambiando tutto di minuto in minuto. Ascoltiamo però quanto dichiarato oggi il Presidente della Commissione Europea Juncker, dicendo che la Commissione è decisa a giungere ad un accordo. Però faccio notare, e poi lo racconteremo, che Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione Europea, quindi vice di Juncker, ha detto: attenzione, una Grexit, un'uscita della Grecia, non è il nostro obiettivo, noi lavoriamo un altro schema per trovare una soluzione, ma se il pacchetto di riforme della Grecia non sarà credibile, non possiamo escludere l'uscita della Grecia. Comunque, Juncker che critica di nuovo il governo Tsipras però per aver abbandonato la trattativa e ha detto un grave errore aver lasciato il negoziato. Wenn die europäische Nation aufhört miteinander zu sprechen, nessuno in Europa può permettersi di voler buttare fuori la Grecia. Visto che questo è assodato, la Commissione europea si adopererà per riaprire il negoziato con la Grecia. Se le nazioni europee smettessero di dialogare tra loro, saremmo di fronte alla fine dell'Unione europea. Io credo fermamente che adesso sia giunta l'ora in cui ciascuno, con razionalità e giudizio, deve mettersi al tavolo delle trattative. Sono fortemente convinto che la delegazione greca abbia fatto un grave errore a lasciare il negoziato. Questo non si può fare in Europa. In Europa bisogna essere pronti a trattare fino alla fine. Questo il governo greco non lo ha fatto ed è stato un errore molto grave. Posizioni un po' diverse. Juncker è un democristiano lussemburghese di lungo corso, cerca sempre di mediare. Dombrovskis invece un po' più netto, anche perché domani avremo anche un'analisi su questo. In realtà noi parliamo sempre della Germania perché è la Germania in questo momento che gestisce le trattative, non te girarci attorno, però va detto che molti paesi del nord Europa, anche i paesi baltici di cui è espressione Dombrovskis, ma penso all'Olanda, alla Finlandia sono, e fuori dall'euro alla Polonia, sono molto più duri nelle posizioni con la Grecia della Germania stessa. Paradossalmente la Germania quasi delle volte sembra mediare tra queste posizioni del nord Europa, mediare forse eccessivo, ma insomma non è la più intransigente. Poi sappiamo che il peso di questi paesi è relativo e in questo momento, come dimostrano anche gli incontri Hollande, Merkel e Tsipras, il gioco si fa a due e forse a tre, se vogliamo includere anche Hollande. Sulla Germania però, oggi il ministro delle finanze tedesco Schäuble, arrivando a metà mattinata, ora di pranzo, all'Eurogruppo sulla Grecia, ha detto: attenzione, chi conosce i trattati dell'Unione Europea sa che il taglio del debito è vietato dai trattati. Seit einer Woche ist das Programm ausgelaufen, wir haben kein Programm mehr. Il programma per gli aiuti alla Grecia è scaduto da una settimana. Non abbiamo più nessun programma. Dopo il referendum greco attendiamo con apprensione l'Eurogruppo ed il successivo Eurosummit per sapere quali proposte porterà in queste sedi il governo greco, che fino ad ora si è opposto alle nostre proposte, appoggiato in questo dal referendum di domenica. Ma rimane chiaro che in assenza di un programma non c'è modo di aiutare la Grecia. Chi conosce i trattati europei sa che proibiscono di tagliare il debito qualora non si arrivi ad un accordo. Allora, sì, vedo che alcuni scrivono: i greci sono dilettanti allo sbaraglio, altri fanno notare che invece la Grecia aveva già fatto una proposta due giorni prima del referendum ed era molto vicino alle richieste della Troica, e la Merkel aveva detto che l'avrebbero valutata dopo, solo dopo il referendum. Sono due cose diverse, cioè Tsipras ha detto, da quello che si è capito, insomma, la proposta greca arriverà domani. È vero che, da quello che si capisce, è arrivato senza una proposta dettagliata e ha chiesto, avrebbe chiesto 7 miliardi di linee di credito immediata nelle prossime 48 ore per fronteggiare i debiti in scadenza e evitare il fallimento. Allora, anche di questo, in realtà io volevo parlare di Cina, di Asia, di quanto è successo alla borsa di Shanghai che dal 12 giugno ha perso il 30% del suo valore. così come ricaduta di un insieme di misure. Però saluto intanto e ringrazio per essere in collegamento Claudia Segre, che è segretaria generale di Assium Forex, l'associazione che riunisce tutti coloro i quali operano in borsa. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Un primo commento su quanto sta capitando in borsa alla luce anche della vicenda greca, poi andiamo alla Cina come le avevo promesso. Sono nervosismi momentanei, anche oggi abbiamo visto un mercato che tentava di dare un piccolo rimbalzo, adesso la perdita del 2,80%, qua si va a chiudere, ormai si sta chiudendo, ma si rischia di chiudere come ieri, meno 3, no, ieri abbiamo fatto anche meno 4, ma insomma sempre male, e devo dire che anche Parigi meno 2,11, Francoforte meno 1,90 non confortano. No, infatti, come le ha detto, stamattina noi si aspettava questo piano che dovesse essere sottoposto e discusso all'Eurogruppo, non nel dettaglio, ma per una possibile riapertura delle trattative. Il piano non è arrivato, domani ci sarà una sorta di abbozzo di proposta, ma è troppo poco per il mercato. Quindi immediatamente il mercato si è rigirato dopo questo ennesimo colpo di mano da parte di Tsipras. Tenga presente, rispetto a quello che lei ha detto prima, che 16 paesi su 18 dell'Eurozona sarebbero a favore della Grexit, oltre a tutta una serie di banche anglosassoni e di mani forti sul mercato. Quindi la situazione per la Grecia non è assolutamente facile, le banche non possono assolutamente riaprire e le richieste di Tsipras, anche dei 7 miliardi, sono totalmente fuori luogo nel momento in cui non esiste nessun piano se non il discorso di ricorrere all'ESM, ma comunque ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Quindi senz'altro gli operatori hanno apprezzato questa mancanza ennesima serietà politica e di impegno politico, soprattutto da parte di Tsipras, che sembra mancare totalmente. Quindi lei dice il fatto che siano arrivati senza nemmeno la cornice, non il dettaglio, anche perché giustamente alcuni nostri ascoltatori fanno notare che c'era già una prima una seconda, terza proposta che i partner si sono rifiutati di valutare, hanno detto no, adesso fai il referendum, però quella, mi riferisco a quella di venerdì, quando fu poi annunciato il referendum, giovedì venerdì, sembrava che si fosse vicini a un accordo. Però le dice il fatto che sia arrivato senza nulla, senza neanche un impegno di massima, è particolarmente negativo, e la richiesta di 7 miliardi da sola così non può essere accettata. Ora però, domani le banche greche sono ancora chiuse e anche la borsa greca è chiusa. Da quello che noi avevamo capito, dottoressa, la liquidità delle banche basterebbe fino a domani, un miliardo, dicevano alcune fonti greche. Sicuramente il 20 luglio va in scadenza un prestito della Banca Centrale Europea che decreterebbe, se non pagato, anche il default nei confronti della BCE. Ma secondo lei si sta veramente arrivando al fallimento quantomeno tecnico della Grecia? Sì, assolutamente, ci si sta avviando verso un default tecnico nel momento in cui sono solo i famosi 89 miliardi con gli haircut aggiornati a ieri sera che tengono in piedi l'attività standard delle banche, che non possono riaprire proprio perché non hanno riserve monetarie. Di fatto Tsipras sta giocando la carta della volatilità, cercando di creare ulteriore disturbo sui mercati europei, dimostrando quindi che Grexit non è sul piatto e che la Grecia è fondamentale per la tenuta dell'Unione Europea. La questione non è esattamente così, e quindi il gioco che sta portando avanti è un gioco estremamente pericoloso, soprattutto per i nervi dell'Eurogruppo, che è molto, ha dimostrato tutto il suo disappunto anche nelle parole di dissindrome di Juncker. Senta, però guardando i mercati, dottoressa Segre, sembrerebbe che Tsipras abbia ragione, cioè all'annuncio che qua rischia di uscire la Grecia hanno perso, adesso siamo appunto meno 2,22 Parigi, meno 2 Francoforte, meno 2,80 Milano. Sì, in effetti quello che ci stia dietro è proprio questo discorso, cioè sappiamo perfettamente che c'era una grossa ammontare di investimenti esteri pronti ad entrare sui mercati europei non appena si fosse risolta la questione greca, cosa che evidentemente non è successo perché la firma non c'è stata. Questi investimenti si sono ritirati e anzi ci sono delle prese di profitto in atto soprattutto da parte di conti americani oltre che di fondi internazionali. Allora, io le avevo promesso, il motivo per cui l'abbiamo invitata è perché la settimana scorsa, nel pieno delle trattative e dell'avvicinarsi del referendum greco, la borsa di Shanghai, perché non esiste solo la Grecia, anzi teoricamente, con massimo rispetto per i greci, non dovrebbe esistere come tema, ma dovremmo occuparci di Cina, di India, di Europa nel suo complesso. Allora, l'indice composite di Shanghai ha chiuso anche oggi con meno 1,3%, è arrivato a perdere fino al 5%, Shenzhen ha perso il 5,3%, la caduta è iniziata il 12 giugno, dopo mesi di crescita costante, alimentata anche dalla politica di facile accesso alla liquidità che ha seguito il governo di Pechino. Migliaia, decine, centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori hanno investito sulla borsa. Dal 12 giugno, però, il crollo è stato di circa il 30%. Vorrei capire, dopo le chiedo ancora un po' di pazienza, il metodo e la pubblicità, che cosa sia successo, perché una borsa che perde un terzo del suo valore, una borsa come quella di Shanghai, beh, non si può dire solo correzione salutare. Molti parlano di un rischio bolla, di un rischio bolla proprio sui listini, una bolla nata anche coi piccoli risparmiatori, addirittura che sarebbero arrivati a farsi prestare i soldi delle banche per investire in borsa secondo le migliori tradizioni del mondo occidentale quando si crea una bolla. La risposta dopo la pubblicità del meteo. 349-238-6666 per i vostri sms e la posta di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, mentre c'era la pubblicità e il meteo, la borsa ha chiuso meno 3%, facile profeti siamo stati, Parigi meno 2,30, Francoforte meno 2, ma soprattutto le agenzie hanno appena battuto un flash in una dichiarazione di Angela Merkel, che mentre entrava al vertice straordinario appunto sulla Grecia dei capi di governo ha detto: mancano ancora le basi per negoziare un accordo con la Grecia, quindi è proprio un no secco per ora, diciamo che non ci sono le basi. Dottoressa Segre, insomma, questo va nella direzione che c'eravamo detti. Allora, torniamo alla Cina. Che cosa è successo perché la borsa di Shanghai riesca a perdere in meno di un mese il 30%? Ma allora, bisogna dire che prima di tutto lo Shenzhen è stato trainato giù da una perdita del 40% nel sottoindice relativo alle small cap, quindi alle piccole aziende, tenendo conto che nell'ultimo periodo oltre 745 aziende sono state sospese, rappresentano il 26% del listino. Ciò è avvenuto perché è nato un vero e proprio, più che una bolla, una sorta di cortocircuito nel processo di liberalizzazione dei mercati da parte della Cina. Il governo sta lavorando su più fronti, da una parte quello di ripulire il debito dei governi locali, ridurre il discorso di non performing loans delle banche, intervenire sullo shadow banking e anche evidentemente sui mercati. Bisogna anche dire che esternamente parecchie case americane, in testa Morgan Stanley, stanno giocando un po' la partita del governo nei confronti di una Cina che ha creato un nuovo ente multilaterale, che è sempre più vicina alla Russia e che ha messo i bastoni tra le ruote nell'accordo sugli scambi commerciali tra Asia e America, che come sappiamo... Cioè, mi scusi, dottoressa Segre, lei sta dicendo che oltre a una manovra del governo cinese in atto per cercare di ridurre un rischio bolla, eccesso di liquidità sul mercato azionario, certo, ci sono anche le grandi banche d'affari americane che, seguendo un po' l'orientamento della Casa Bianca, stanno vendendo per dare un messaggio politico attraverso una reazione finanziaria, un messaggio politico alla Cina, perché la Cina ha un asse con la Russia, perché si è messa di traverso sugli accordi di libero scambio? Sì, allora teniamo conto che sul mercato stanno lavorando 90 milioni di risparmiatori cinesi, stanno lavorando i broker cinesi che hanno messo in atto un piano, o meglio un pacchetto di 19 miliardi di dollari per arginare questo attacco speculativo, e sono state congelate tutte le nuove IPO per evitare arbitraggi. Tutti i nuovi collocamenti. Esatto. Quindi diciamo che è in atto questo intervento da parte del governo, è la prima volta che la Cina veramente in una sorta di prova tecnica di liberalizzazione si trova scoperta e quindi a rincorrere il mercato più che a condurlo. Beh, è il capitalismo bellezza, nel senso che esatto. Non è che le banche d'affari americane esistono solo per noi quando devono vendere debito italiano e aumentare il nostro spread, cioè esistono anche per i cinesi. Senta, gli è piaciuto il capitalismo e adesso ne beccano tutti gli effetti, però una cosa volevo capire, c'è o no dal vostro osservatorio una bolla, ossia il fatto che proprio in materia di capitalismo, sappiamo che le bolle accompagnano il capitalismo dai suoi albori, dalla bolla dei tulipani, in poi. Allora, c'è un effetto bolla dentro il mercato cinese, cioè risparmiatori che sono messi a comprare titoli perché immaginano che questo sia un nuovo Eldorado con l'effetto catena e aeroplanino, per cui l'ultimo resta col cerino in mano. Addirittura abbiamo letto di risparmiatori cinesi che avrebbero chiesto prestiti in banca per investire poi in borsa, che è il massimo della follia. Ma allora, premesso che tutto questo sono effetti di anche prove di capitalismo, evidentemente, che questo frenerà quel processo accelerato di internazionalizzazione della divisa locale, secondo me è una bolla che si sta sgonfiando gradualmente, quindi non abbiamo lo scoppio, la deflagrazione, ma io mi aspetto che il governo intervenga ulteriormente, che quindi blocchi di fatto questa situazione, cercando di ricondurre anche tutta la parte dell'esposizione dei risparmiatori con queste misure straordinarie, quindi dovrebbe rientrare, e su questi livelli stanno già rientrando parecchi. Ma è vero che la Cina ha anche un problema di eccesso di liquidità, cioè la Cina ha inondato il mercato comunque di molta liquidità, di molto denaro, ha stampato molta moneta, per dirlo in maniera banale. Assolutamente sì, da due settimane ha incominciato questo nuovo quantitative easing e questo lo deve fare anche perché ha un problema di ciclo economico che sta cambiando totalmente a livello di modello produttivo. Cioè loro sono sempre meno esportatori e sempre più consumatori. Assolutamente, con la robotica stanno cambiando l'aspetto proprio delle loro produzioni interne, non più assemblaggio, non più copiare i modelli esterni, ma una produzione all'interno al servizio del consumo e della domanda locale, che sappiamo è enorme. Beh, anche è la seconda fase dello sviluppo cinese che tutti prevedevamo, cioè la prima fase è stata diventare la grande manifattura del mondo, in particolar modo del mondo occidentale. La seconda fase, una volta che questa grande manifattura ha generato ricchezza sia come occupazione complessiva sia poi di ricchi, di miliardari veri, diventare un grande mercato del consumo, che a noi italiani va benissimo, nel senso che oltre alla concorrenza cinese ormai ampiamente registrata e ampiamente che ha già svolto i suoi effetti sui prodotti di fascia bassa, pensate alle decine di migliaia di aziende italiane che hanno chiuso nel tessile piuttosto che in altri settori, se la Cina diventa sempre più un mercato di consumo e non di produzione, a noi che siamo dei produttori importanti e che abbiamo nel Made in Italy un punto di forza, dovrebbe andare bene, dottoressa. Su questo sono assolutamente d'accordo e lei ha esattamente raffigurato la situazione attuale. Lei si può capire come il governo, avendo a che fare con questo cambiamento epocale da un lato e la necessità di ricondurre i mercati finanziari a un processo di liberalizzazione necessario per questo loro obiettivo di avere una divisa di conto nazionale che peserà sempre di più nelle riserve internazionali, sono alle prese con una situazione inaspettata. È per questo che ci stanno correndo dietro, però a mio avviso sono già a buon punto per recuperare la situazione e bloccare un ulteriore deterioramento delle quotazioni. Quindi secondo lei il grosso è fatto, diciamo, quanto a calo pesante, 30%? A mio avviso assolutamente sì, tenendo conto, come dicevamo, che il 26% dei titoli sono sospesi, direi che siamo già a buon punto della deflagrazione. E invece il rischio che alcuni suoi colleghi vedono, che un calo così forte della borsa, dove a questo punto anche i cinesi hanno i loro risparmi, non 90 milioni di risparmiatori investono in borsa in Cina, possa portare poi a un calo dei consumi, della domanda interna e quindi a un PIL più basso delle attese? No, questo non lo vedo, più che altro gli effetti li stiamo vedendo dall'altro lato, quello sulle commodities, questo senz'altro. Sulle materie prime. Il cinese, esatto, sta pesando molto di più sulle materie prime, soprattutto partendo dal rame e altre, che non è un effetto diretto di economia reale sui consumi, per adesso che non è stato registrato. Perché comunque la Cina quest'anno crescerà un 7%, che per noi sarebbe un miracolo, ma per loro è la crescita più bassa da 20 anni a questa parte? Sì, tenendo conto che hanno bisogno di lavorare sugli impieghi, sulle nuove assunzioni, con numeri abnormi rispetto evidentemente a quelli che abbiamo noi, e soprattutto hanno una situazione che stanno affrontando anch'essa molto nuova per loro, che è quella della deflazione. Della deflazione? Esatto. Bene, quindi mi sembra di capire che insomma, questo processo andrà ancora un po' avanti, ma il grosso dovrebbe essere fatto come doppio fronte. Vedo che appunto altri osservatori dicono sì, il quantitative easing che sta facendo la Cina ha caratteristiche cinesi, però insomma, sostanzialmente qualche un altro po' di caduta se lo aspettano. Faccio notare che Pechino per arginare il crollo dei titoli. Aveva messo anche a disposizione dei broker una liquidità agevolata e ha creato un fondo di stabilizzazione per acquistare titoli e tenerli in portafoglio, cioè lo Stato quasi entra in borsa e ha modificato le garanzie su immagini. Grazie. La bella notizia è che oggi appunto la Cina ha investito in altre due banche italiane e ha rafforzato la sua presenza su Unicredit e Montepaschi Siena, quindi almeno c'è del buono nel movimento. Visto che Montepaschi ha perso il 7,48%, sì, sono stati gli unici a comprare a ottimi prezzi oggi i cinesi, bravi, sempre bravi nei fagli affari, che vale 1,45 euro, e anche nei giorni scorsi. E poi mi diceva su Unicredit, pure oggi Unicredit è un'altra bella giornatina, meno 3,87%. E sì, perlomeno loro stanno entrando sui minimi, esatto. Comprano bene, saranno cinesi, hanno appena conosciuto il capitalismo, ma mi sembra che ne abbiano già capito bene i meccanismi di borsa. Grazie al segretario generale dell'Assium Forex, Claudia Segre. Il traffico. Focus Economia. C'è un ascoltatore che sintetizza, ma se vogliamo anche in maniera abbastanza efficace, quanto sta capitando con la Grecia. Io, lei e la signora, immagino la dottoressa Segre che era in collegamento, facciamo una società, poi voi lavorate seriamente, io invece lavoricchio, la sera vado a giocare ai cavalli e al night. Due o tre volte voi mi prestate i soldi, io e la Segre saremo chiaramente l'Europa, dicendomi di cambiare vita. Io non la cambio e poi non me li prestate più. Ma chi è il cattivo? Riuso un altro termine. Io o voi? Dovremmo riaprire tutta la vicenda dell'analisi sulla Grecia. Allora, che la Grecia abbia vissuto sopra le sue possibilità, che avesse un sistema pubblico completamente inefficiente, premiante in maniera da far impallidire anche quello italiano, che avesse un'evasione fiscale superiore anche a quella italiana, delle inefficienze storiche, e che avesse truccato i conti, l'abbiamo spiegato in decine di puntate. Il problema è, per rispondere all'ascoltatore, che se io e la dottoressa Segre le abbiamo già prestato dei soldi, dobbiamo decidere qual è il modo migliore per riaverli, perché se non glieli presto più e lei fallisce, io non vedrò più un euro. Se poi tra l'altro siamo in società assieme, l'esempio che farei, cioè siamo dentro l'area euro e non fallisce solo lei, ma fallisce o rischia di fallire l'intera società, a me, più che non prestarli più i soldi a lei, conviene sì cercare di farle cambiare vita, basta cavalli, gioco dei cavalli e basta nightclub, ma cercare di tenerla in vita. Invece qui si è arrivati a dire alla Grecia: devi ripagare un debito che non ce la farà mai a ripagare. Questo debito la Grecia l'ha contratto perché qualcuno si soldi gliel'ha prestati, le banche francesi, le banche tedesche e via così. Allora vediamo come fare in modo che la Grecia, sì, per carità, deve fare queste riforme, ma è inutile dire ridammi i soldi indietro se non te li puoi dare, perché muore il debitore e il rischio è che salti anche la società che abbiamo fatto assieme. Questo è, per usare il suo esempio, mi sembra che si firmi Enzo. Oh, parliamo di borsa al di là della giornata e poi di chi ha avuto il coraggio di quotarsi in questi giorni. Prima di tutto l'indice definitivo meno 3%, Parigi meno 2,30%, Francoforte meno 2%. Anche oggi non c'è analisi da fare, nel senso che la borsa aveva tentato anche un rimbalzo, e poi invece meno 7,48% Monte dei Paschi, meno 6,70 Saipe, ma anche per un prezzo del petrolio che è andato a scendere oggi, è la variabile delle commodities a cui faceva riferimento la dottoressa Segre, anche come conseguenza di una minore domanda cinese, il petrolio scende sotto i $51 al barile. E Saipem perde 6,71%, tiene un po' di più il settore del lusso, World Duty Free più 0,20%, Campari perde solo l'1%, però ci fermiamo qui perché Luxottica perde il 2,40%, Ferragamo il 2,90%, malissimo anche oggi le banche, Popolare Emilia Romagna meno 6,5%, Popolare Milano meno 6,30%, Banco Popolare meno 4,20, Boots e poi Unicredit meno 3,90, come Intesa San Paolo meno 2,90%. Tra gli altri titoli cito ST Microelectronics che perde il 5 e 20, 5,40, male anche tutte, meno male, scusatemi, le società che sono più esposte sul dollaro. Il dollaro oggi si è un po' rafforzato, ecco perché World Duty Free, ecco perché Autogrill perde solo lo 0,34, ecco perché Campari perde solo lo 0,98%. Tra chi va anche particolarmente male, oltre ai bancari, Mediaset meno 4,1, Jux meno 4, Moncler meno 3,90, Azimut meno 3,80, CNH Industrial meno 3,60%. Come già annunciava la dottoressa Segre, tra l'altro oggi la People's Bank of China si è saputo che è salita sopra la soglia del 2% sia in Unicredit che nel Monte dei Paschi di Siena. Altri titoli, UbiBanca meno 3 e UnipolSai meno 3,13. Migliori e peggiori, primi sui motori 11,30% di rialzo, Modelleria Brambilla il 7,60%, fronte opposto Agronomia meno 7,50%, Monte dei Paschi meno 7,5%, appunto poi Saipem Class meno 6,70%. Oh, forse tutti dicono non era il momento migliore per quotarsi in borsa. Non lo so, non so quale sia il momento migliore. Certo che due società hanno avuto questo coraggio. Una è la Masi Agricola, che lo scorso 30 giugno si è quotata. È il primo caso di azienda vitivinicola che si quota in borsa. La Masi, nostra ospite alcune volte anche durante Vinitaly, è leader nel mondo per la produzione di Amarone. Giovedì invece sarà la volta di Luve Group. E siamo in collegamento con tutti e due, cioè sia con l'amministratore delegato e presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini, nonché presidente nazionale di Federvini. Buonasera Boscaini. Buonasera caro Barigioni. La sentiamo un po' bassa. E anche con Matteo Liberali, amministratore delegato della Luve Group, che è una multinazionale italiana leader nella produzione di apparecchi per la refrigerazione, il condizionamento e il raffreddamento dei processi industriali. Avete, Liberali mi sente, buonasera anche a lei. Buonasera anche a lei, buonasera. Avete 10 unità produttive, 5 in Italia e poi Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Russia e Cina. Sì. 1.500 dipendenti, di cui 620 in Italia, 212 milioni di fatturato, l'80% lo fate all'estero. Beh, la battuta è ovvia, in questi giorni di caldo torrido record, voi avete avuto un good timing per collocarvi in borsa, no? Si può vedere dai due lati, è un good timing per le condizioni climatiche che sicuramente aiutano il nostro lavoro, è teoricamente un bad timing per le condizioni dei mercati. Boscaini, vi va meglio il tempo della vendemmia che il tempo di collocamento in borsa, o in realtà al di là della battuta il progetto è... Beh, un respiro. Questo è fatto, la vendemmia si deve ancora fare, speriamo in un'ottima vendemmia. E devo dire sì, come lei diceva prima Barigioni, non c'è mai un tempo giusto o non giusto, bisogna buttarsi quando si crede a un progetto, e questo è un percorso e un progetto a cui noi crediamo e che crediamo sia interessante non solo per noi ma per il mondo del vino così come è composto in Italia. Ora io vorrei capire anche dopo il GR24, però Boscaini, come mai la necessità di quotare un'azienda vitivinicola? Perché insomma il mondo del vino da sempre vive di famiglie, di proprietà, sì, anche di consorzi, ma prego. Certamente noi viviamo di famiglie, di proprietà, di capitale familiare dedicato per generazioni al nostro mestiere. A fianco di noi vivono i nostri amici della cooperazione con logiche che sono ovviamente diverse ma che portano agli stessi risultati, anche se a volte diciamo con masse critiche maggiori ma anche con delle limitazioni territoriali molto più precise e specifiche. D'altra parte però in una catena nella catena generale della distribuzione e non solo nell'arco di tutta il mestiere del vino, a valle della produzione c'è poi un mondo che invece è tutto diverso, che si consolida. Allora facciamo così, no, perché voglio che me lo spieghi questo. Abbiamo GR24, poi dopo mi spiega che cosa farete di questi soldi, detta così, che avete raccolto. Domanda analoga anche per Liberali, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Un misterioso fruscio che si trasforma di tanto in tanto in parole. Brandelli di notizie da una Radio 24 del futuro. ci raccontano di come lavoreremo, viaggeremo, ci cureremo, spenderemo il denaro tra 100 anni o più. Sono Maurizio Melis, vi invito a Canale 24, Reportage dal futuro, ogni domenica alle 7:15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, poi vi aggiorniamo anche sul... sulle nuove dichiarazioni di Angela Merkel, che comunque continua a dire non ci sono le condizioni per chiudere oggi, un po' più morbido François Hollande. Però volevo concludere l'intervista sia con il numero uno della Masi Agricola, che ha debuttato in borsa il 30 giugno, sia con il numero uno di Louvet Group, Matteo Liberali, che debutterà invece giovedì. Boscaini, dicevamo prima del GR24, cosa farete di questi soldi? Perché lei faceva già intuire che a un gruppo vitivinicolo servono anche i soldi per la distribuzione, per i mercati, quindi? Sì, quindi stavo dicendo appunto che nell'ambito della filiera vitivinicola che parte dal vigneto e arriva alla tavola del consumatore, ci sono due fasi del tutto diverse, quella che è a monte della produzione compresa e quella a valle della produzione. In quest'ultima noi siamo perdenti, noi italiani, perché siamo troppo piccoli, perché siamo scoordinati, perché normalmente le nostre aziende hanno strutture di dimensione familiare o comunque non sviluppata e a volte anche culturalmente abbastanza impreparati. Non parlo di tutte le aziende, ci sono una 20-25 aziende che hanno già delle dimensioni e noi grazie a Dio siamo tra questi, però bisogna pensare che le decine di migliaia di aziende piccole devono trovare qualche polo di riferimento, devono trovare qualche aggregazione, perché appunto a valle della produzione ci sono invece dei complessi distributivi sempre più grossi, sempre più agguerriti, sempre più sfidanti e capaci. Anche perché i nuovi mercati si chiamano appunto India, Cina, sono India, mercati distanti. India, Stati Uniti, eccetera. Però mi scusi, appunto, tornando a voi, voi fatturate 60 milioni di euro, avete un margine operativo lordo del 30%, siete già presenti in 100 paesi e esportate il 90% del fatturato. Uno direbbe, beh, ma che vi serve? Siete già messi bene sulla distribuzione? Oppure con questi soldi pensate anche di acquisire altri produttori e aumentare sia la produzione che la distribuzione? Appunto, noi pensiamo ad un incremento della nostra produzione per linee interne e sappiamo appunto di avere ancora margini in alcuni mercati anche importanti, gli Stati Uniti per esempio, per ragioni storiche non sono per noi al livello dove dovrebbero essere, ma anche il mercato interno europeo può avere spazi di crescita. Alcuni mercati sono effettivamente, e dopo non pensiamo della Cina per esempio, che per tutti gli italiani è un po' di mal di testa nel campo del vino. Noi abbiamo un modesto quinto posto quando dovremmo essere primi o secondi al massimo dopo la Francia. Abbiamo un abisso, la Francia col 55% di tutta l'importazione rappresenta il 55% di tutta l'importazione cinese, noi rappresentiamo un modesto 6%. Ecco, allora, quindi volete crescere poi sia nella produzione per linee interne ma anche qualche acquisizione e aumentare la vostra acquisizione e aumentare la nostra presenza nei mercati, questo devo dire è fondamentale. Appunto, rispetto a questi grandi gruppi a cui ci fianchiamo, siano essi importatori, distributori o ancora meglio i grandi gruppi della distribuzione al pubblico del dettaglio, e noi lo sappiamo già in Italia quando i grandi gruppi quanto sono e cosa sono i grandi gruppi dei supermercati eccetera, noi non abbiamo interlocuzione di livello perché non siamo né grossi né attrezzati. Ho capito il ragionamento, crescerete sia a monte che a valle. Liberali, anche per voi, cioè voi avete l'80% del fatturato, lo fate all'estero in 90 paesi, avete una crescita del fatturato superiore al 9%, lei tra l'altro fa parte della famiglia Liberali che controlla il 74%, poi c'è un altro 26% che era della famiglia Fagioli. Cosa farete dei soldi che raccoglierete? Di sicuro abbiamo visto in questo processo di quotazione un meccanismo di uno strumento per accelerare i nostri piani di crescita. Dove è la domanda che mi hanno fatto tutti gli investitori che ho incontrato durante il processo di preparazione della quotazione. Accelereremo i piani di investimento che avevamo già pensato, sia in Italia che all'estero, e ovviamente siamo pronti a ci guarderemo intorno per cogliere opportunità di acquisizione in mercati o in paesi dove la nostra presenza è più marginale. Ma non siete preoccupati, liberali, della volatilità che delle volte la borsa dimostra? Ma sinceramente in questo momento non è la mia principale preoccupazione, perché lo strumento che abbiamo scelto di quotarci attraverso il meccanismo della SPAC ci mette al riparo dal rischio che avremmo corso in questi giorni di un rinvio di un IPO tradizionale, perché sarebbe stato il timing peggiore possibile immaginabile. Con lo strumento della SPAC i fondi sono già stati raccolti, per cui noi giovedì ci quoteremo e i 50 milioni raccolti da Industrial Stars of Italy confluiranno per intero nel capitale di Luve, per cui da quel momento lì in poi probabilmente il titolo subirà le intemperie del momento, però il nostro orizzonte non è l'orizzonte del trimestre, non è l'orizzonte della settimana, ma è un orizzonte di lungo termine. Sì, perché tra l'altro contestualmente allo sbarco in borsa voi acquisirete un'altra società già quotata che è l'Industrial Stars of Italy e la vostra capitalizzazione passerà dai 141 milioni attuali ai 190, no? Ah, cioè, il meccanismo della SPAC prevede un'incorporazione. Sì, un'incorporazione. In questo caso è un'incorporazione inversa. Tra l'altro, complimenti perché voi avete vinto anche la gara per l'aeroporto internazionale di Jeddah, il King Abdulaziz, l'anno scorso. Sì. È la più grande gara nel settore mondiale del condizionamento. 900 unità destinate ai server. Allora, in bocca al lupo. A Masia abbiamo preso anche una commessa importante per il canale di Panama. Per il canale di Panama, bene. E poi siete presenti come impianti di condizionamento al Teatro Bolshoi di Mosca, al Palazzo dell'Eliseo a Parigi, alla Fiera di Francoforte, all'Ice Dome di Sochi, che è la sede delle gare di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali. Bravi, ci fa sempre piacere raccontare aziende italiane che sono presenti, appunto Masi con il 90% del fatturato, voi con l'80% del fatturato sui mercati esteri. Coraggiosi a quotarvi, in bocca al lupo a voi come a tutte le società quotate, ma visto che siete debuttanti, in particolar modo in bocca al lupo a voi. Grazie quindi a Sandro Boscheini, presidente e amministratore delegato della Masi Agricola, e Matteo Liberali, amministratore delegato di Luve Group, il traffico e poi la Grecia. Focus Economia. Oh sì, la testa nostra è veramente una giungla, non si capisce più nulla. Allora, poco fa Angela Merkel ha detto: ci consulteremo nell'entrare al vertice straordinario Eurosummit, ma non avremo ancora un quadro definitivo. Dopo il più che chiaro referendum greco, non ci sono ancora le condizioni per cominciare le trattative per un programma nella cornice dell'SM. E poi invece Hollande, più morbido: responsabilità, solidarietà e rapidità è quello che serve per arrivare a un accordo con la Grecia. La Grecia ha enunciato la sua proposta all'Eurogruppo, ma deve essere precisata, completata e finalizzata. In collegamento con noi da Bruxelles Adriana Ceretelli, il barometro Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi dell'Europa. Buonasera Adriana. Buonasera. Eccoci. Il barometro continua a volgere al brutto. Ecco, ti ringrazio nel per avermi... Nel senso che... Dimmi. Nel senso che certo la Merkel ha detto non abbiamo ancora nulla, sembra che domani arriveranno le proposte di Tsipras, sembra, perché ancora nulla è ufficiale. Però direi che il clima è molto negativo, non si vede come si possa trovare un terreno di intesa, perché l'opinione pubblica tedesca è in schiacciante maggioranza contro, e soprattutto il partito della Merkel è in modo troppo numeroso contro un accordo per tenere a bordo la Grecia. Nel Consiglio europeo, diciamo, i nordici e i paesi baltici sono contrari, quindi insomma il consenso per tenere la Grecia dentro sembra veramente basso. Insufficiente. Sì, forse diciamo stasera può darsi che non si chiuda con una rottura, può darsi che ci sia ancora un'apertura in attesa delle proposte di Tsipras, però sembra molto improbabile comunque che questi aiuti all'ESM possano avere la funzione di evitare il disastro, in quanto comunque richiedono dei mesi per essere negoziati gli aiuti, perché sarebbero comunque condizionati, si tratterebbe di 30 miliardi, ma il problema è che non possono passare né delle settimane né dei mesi, perché se la BCE non avrà, diciamo, una scusa, un avallo politico, un ombrello politico per riaprire il rubinetto dell'ELA, nel giro di due giorni la Grecia fallisce. Allora, chiariamo questo punto. Cioè, tu dici, attenzione, perché anche un accordo che è tutto da vedere, da dimostrare, per sviluppare i suoi effetti ci metterebbe dei mesi. La Grecia invece ha bisogno, ecco perché si era diffusa la voce che Tsipras avesse chiesto intanto un prestito temporaneo di 7 miliardi. La Grecia il 20 luglio deve dare alla BCE la somma di due tranche, in tutto sono 3 miliardi e mezzo di euro. Se non paga il 20 luglio, oltre che non aver pagato il fondo monetario, non rimborsa neanche la BCE. A quel punto la Banca Centrale Europea non può più dare un euro alla Grecia perché è stata insolvente. Le banche greche non riescono a riaprire perché non hanno più soldi per gestire l'attività anche dello sportello, e i bancomat sono fermi a 60 euro di prelievo al giorno, e la Grecia va in fallimento. Questo il 20, il 20 luglio, non fra due mesi. Se la BCE non avrà un ombrello politico, certo, per ricominciare a finanziare la banca centrale greca, il default non aspetterà il 20 luglio. No, chiaro, già tra entro la settimana, insomma, già da venerdì. Possono durare più di 2-3 giorni. Certo. Sì, certo. Anche perché adesso le banche greche è vero sono che si parla di nuove riunioni dell'Eurogruppo, e non si esclude anche di nuovi vertici. Ma tutto probabilmente si conclude da qui al weekend, alla fine settimana, sì, a mercati, sì, chiusi. Anche perché le banche sono chiuse. Questa è la sensazione qui. Sì, sono chiuse, erano chiuse ieri, sono chiuse oggi, saranno chiuse domani, idem per la borsa. Non è che tu possa resistere molto con le banche chiuse, per lì a 60 euro. Ecco perché mi collego anche con Atene, dove c'è la nostra inviata Valeria De Rosa, che ha seguito i giorni precedenti al referendum, poi la grande diretta di Radio 24 la sera del referendum. E Valeria, buonasera innanzitutto. Passata, buonasera, la sbornia, diciamo, da referendum, qual è il clima oggi ad Atene? Perché insomma si iniziano a fare i conti adesso. Quanto ricordava Adriana Ceretelli, è purtroppo un cronometro impietoso, non si riesce forse neanche arrivare al 20. Se Mario Draghi non ha, passatemi il termine, la scusa per prestare dei soldi alla Grecia, questa scusa può essere solo un'iniziativa politica dell'Eurogruppo. Valeria. Allora, intanto certamente qui si ha la netta sensazione, ma è una sensazione molto chiara per quanto riguarda i greci, che si può arrivare al massimo alla fine della settimana, perché qui è tutto fermo, importazioni e esportazioni, visto che c'è il blocco dei capitali, qui è tutto fermo, gli unici soldi che escono dal paese sono quelli per i farmaci, quindi nient'altro si muove attualmente, e questo i greci ce l'hanno ben chiaro. Quindi è vero che c'è stata una sbornia post referendum, ma è stata molto limitata nel tempo, perché già lunedì mattina i problemi erano lì e alla popolazione erano ben chiari, quindi sono assolutamente consapevoli del fatto che oltre questa settimana non si potrà andare avanti, quindi la situazione è qui molto delicata. In più posso dire che questo pomeriggio, quando si sono diffuse le notizie secondo cui il governo greco si era presentato senza una proposta, fonti non ufficiali mi smentivano questa circostanza. La Grecia si sarebbe presentata con una proposta molto simile a quella della scorsa settimana, con delle modifiche, ma che sarebbe stata in qualche modo respinta, perché le riforme che l'Europa chiede sono riforme diverse, questo mi è stato detto, molto incentrate, cioè con una grande attenzione nei confronti delle privatizzazioni, che invece è un capitolo su cui Tsipras è molto attento. Quindi diciamo ci sarebbero degli scontri su quelle che sono poi le riforme davvero necessarie. Ecco, su questo Vorrei sentire anche te, scusa, te. Prego. No, aggiungo solo una cosa. Mi è stato detto che le modifiche ulteriori consistevano in ulteriori inasprimenti del sistema fiscale. Questo, diciamo, può essere un elemento importante. Sì, ma io poi vorrei chiedere ad Adriana Cerretelli perché non si può ripartire da quel negoziato che sembrava quasi vicino a trovare un accordo prima dell'annuncio del referendum. Però un'ultima domanda, Valeria, ti chiedo estrema sintesi. Tu dicevi che insomma il paese è fermo, oggi abbiamo visto una stima addirittura di 40.000 lavoratori o licenziati o sospesi negli ultimi giorni per appunto la mancanza di pagamenti, ma questo si nota anche così empiricamente girando per Atene? Allora, questo ancora non si nota, devo dire che certamente serpeggia una certa preoccupazione, cioè in superficie i greci restano persone molto solari e molto aperte, conservano diciamo una sorta di ottimismo, e molti mi hanno detto speriamo, nessuno sa che cosa potrà accadere, ma noi abbiamo una forte speranza, ma certamente comincia ad essere evidente che anche Atene, che comunque comprende la metà della popolazione greca, comincia ad avere delle difficoltà come città, come funzionamento della città. Allora, Adriana Cerretelli, mentre molti ascoltatori scrivono, ma ci perdiamo molto di più se la Grecia esce, ragazzi, lo continuiamo a raccontare da anni questo, che non si poteva arrivare a sto livello perché è peggio la situazione in cui ci siamo posti che non trovare un accordo con la Grecia. È l'esempio della famiglia di prima, della società, ma insomma, se c'è un fratello che sperpera i soldi tuoi, non lo lasci affogare. Lo so, ma qui più che una famiglia è una società per azioni d'Europa. In questo momento il problema è che anche all'interno della società per azioni, se uno dei soci fallisce, tu lo lasci fallire e poi fai saltare la società per azioni, non ti sei fatto un grande bene neppure tu. Comunque, Adriana, perché non si può ripartire dalla proposta che sembrava vicina a un accordo prima che Tsipras annunciasse il referendum? Perché in modo molto brutale non c'è la volontà politica. Ah, appunto. Ecco. In modo molto brutale. Ma allora diciamocela tutta, cioè, hanno già deciso il gioco del cerino, per cui si passeranno il cerino che se è colpa tua è colpa mia, ma non c'è la volontà politica di tenere la Grecia a bordo, stanza. Quindi si è preso già implicitamente questo tipo di decisione, a meno che un miracolo naturalmente, oggi per esempio Tsipras ha parlato con Obama, a meno che questo tipo di pressioni gli americani, però finora non hanno portato a nulla, intendiamoci, gli americani, i cinesi, no? Tutti hanno paura che il fallimento della Grecia sia una sorta di Lehman Brothers 2 e quindi temono la destabilizzazione dell'economia mondiale e per questo insistono con la Germania perché non si arrivi a tanto. Ma la sensazione che si ha, e io spero di sbagliarmi, ma temo di non sbagliarmi, è che alla fine abbiano già deciso. Si preferisca diciamo liberarsi della Grecia e magari pure di Cipro, se fosse possibile, per rendere l'unione monetaria più coesa, più omogenea, eccetera. E oramai siamo in quest'ottica. No, è molto grave, è molto grave quello che tu dici. La situazione sia molto sbagliata. No, ma dico, è molto grave quello che tu sbagliarmi. Anche noi ce l'auguriamo stavolta, però è molto grave quello che tu dici, perché poi noi ragioniamo sulle proposte, già c'era sembrato assurdo far saltare una trattativa dopo mesi per delle aliquote IVA. Adesso ragazzi, mi dico, cioè, quando la posta in gioco è talmente alta, e anche oggi la borsa ha perso un 3% da noi. Tu dici però che la sensazione che tu hai è molto molto forte, che ormai gli altri partner si siano rotti le scatole, non vogliono più nemmeno tentare un accordo. Beh, insomma, questo non ci fa sentire molto, molto meglio, e non dovrebbe far sentire molto meglio nemmeno i greci. Poi ci sarà tutto il gioco, se fosse vero quello che tu dici, il gioco politico è colpa di Tsipras che è arrivato, no, è colpa vostra. Però se non c'è la volontà politica sicuramente non si muove Mario Draghi. E sicuramente la Grecia va in default. Io spero che di sbagliarmi, ma intanto ringrazio sia Valeria De Rosa in collegamento con noi da Atene. Buon rientro, Valeria. Ti conviene rientrare, mi sa, visto il ragionamento di Adriana Cerretelli. E grazie anche al barometro Cerretelli, che devo dire non ho mai sentito così buttare al maltempo. Speriamo che tu ti sbagli, Adriana. Di solito sei una che ci azzecca, questo mi preoccupa ancora di più. Grazie anche a te, da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo comunque domani dalle 17 in poi. Radio 24. la passione. Si sente.